dire tante cose, una lacrima sul viso. Viso. Così, dai, poco a poco di meno, ecco, così. Vicini con i forconi. E le clave incendiate. Ti uccidiamo, clave incendiate. Ti uccidiamo, clave incendiate. Ti uccidiamo, uccidiamo. Destro al destino, più frammentario. Va bene, no, abbassa un po' di lei. Abbassa un po' di lei. Ecco. Tante cose al viso, mi può dire tante cose.